It's good to be wise. Qui fondamentalmente con una roba sua da solo. Poi ci siamo, suonavamo già insieme prima. Sì, ci siamo sciolti col vecchio gruppo e siamo rimasti a lui e abbiamo deciso perché non chiamarci Asin. Per un duo è una bella cosa, ci troviamo bene con questo nome, ci vogliamo bene e il nome ci aiuta a volerci ancora più bene. Una bomba fondamentalmente il festival, è stato bello. Noi dovevamo suonare, noi non dovevamo esserci tutti e due i giorni, venerdì e oggi, però ci è saltata la data che avevamo venerdì nelle Marche, quindi siamo venuti direttamente qui e ce la siamo fatti, insomma, prendere bene, come si dice. Ci siamo preparati alla performance bevendo fondamentalmente, è stato bello, cioè è stata una bella preparazione. Non abbiamo mai suonato così tardi, alle 3 abbondanti. Sono esperienze che secondo me solo allo ZK puoi fare. Andiamo fieri, insomma, grazie. Anzi, grazie a voi. La stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Lo vedi il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo. Suona una monica, mi sembra un organo che vibra per me giù nell'immensità del cielo. Nai nai nai nai nai. A sfumare.